Buonasera su Radio MPA, questa è la voce di Marco Cuoco. Ogni mercoledì infatti ci ritroviamo qua belli, puntuali, precisi e concisi per dare vita a uno dei tanti programmi, quelli diciamo di informazione al contrario, ma non quella degli illuminati, anzi tuttavia noi abbiamo il modo e il tempo proprio per parlare di alcune problematiche che vengono un po' trascurate tra virgolette dai nostri grandi mass media e allora siamo lì pronti per darvi informazioni questa sera concentrate sulle scie chimiche. Ecco, che cosa sono, dove si trovano, che cosa vengono procurate e che cosa coinvolgono. E allora tutto questo ci sarà modo e tempo per dare spazio alle vostre domande con l'intervento in studio in diretta di Rosario Marcenò, presidente del sito Tankeremy, ma non solo, ma anche presidente di questa associazione che combatte proprio le scie chimiche. E allora 19 18 08 28 99 40 70, questo il numero per interagire, vi aspetto in trasmissione ma anche www.radiomepa.it e poi sul profilo mio personale Marco Cuoco su Facebook, dove appunto c'è l'evento in questione. 19:31, allora come avevamo detto, è puntuali come un orologio svizzero, ci siamo con il nostro caro amico Rosario Marcenò che ci ascolta e ci segue ovviamente in streaming, per noi in contatto telefonico Rosario Marcenò, presidente del Tankeremy. E ovviamente con lui parleremo di scie chimiche. Rosario, buonasera. Buonasera, ciao Marco. Buonasera e ben ritrovato dopo un lungo tempo così di astinenza sulle scie chimiche, non ne abbiamo parlato più da tempo. Però sicuramente avete avuto questa crisi di astinenza. Sì, l'abbiamo avuta e come. Ma soprattutto stiamo notando come l'hanno avuto anche coloro che appartengono a quel progetto, di controllo e anche di modifica del nostro clima. E allora, noi dobbiamo introdurre l'argomento scie chimiche. Quale migliore occasione se non quella appunto di far presentare da te l'argomento? Che cosa sono? Coloro che non sono ancora informati su quanto sta avvenendo, siamo di fronte ad alcune operazioni che potremmo definire in breve come geoingegneria clandestina o come guerra climatica. Ho un ritorno, non so se è possibile eliminarlo. Com'è la situazione? C'hai un ritorno in cuffia? Ho un ritorno in cornetta qui. Allora, vediamo di abbassare, vediamo un po' se va meglio adesso così oppure no. Proviamo, sì, adesso va meglio. Ok, prego. Ok, no, perché sennò mi viene l'eco e non ci capisco più. Hai ragione. Bene. Vabbè, niente, quindi stavo dicendo che siamo di fronte ad operazioni di guerra climatica. Perché? E soprattutto come, quando e dove? Queste operazioni di geoingegneria clandestina, scie chimiche, sono in corso da diversi anni in tutto il mondo, hanno iniziato in Canada, negli Stati Uniti, poi si sono estese alla Gran Bretagna, alla Germania, alla Francia e piano piano poi comunque si può affermare senza alcuna ombra di dubbio che oramai veramente pochissime zone del pianeta sono esenti da queste operazioni, perché queste operazioni entrano in un progetto di guerra ambientale definito dall'aeronautica militare statunitense dominare il clima entro il 2025, venne pubblicato anche un documento nel 1995 rispetto a questo. Per quanto riguarda l'Italia, la situazione si è incancrenita, è peggiorata notevolmente dopo le prime sperimentazioni che si erano già avute a metà degli anni 90 dello scorso secolo, dopo l'accordo Italia-USA, definito piano dettagliato sul controllo del clima, gestito dal CNR, che fu firmato dall'allora presidente Berlusconi con l'ex presidente Bush Junior nel 2002. Questo accordo era pubblicato sul sito del Ministero degli Esteri ed era pubblicato anche sul omologo portale degli Stati Uniti. Per un puro caso lo reperimmo e per fortuna avremmo la possibilità di mettere da parte questo documento PDF che relazionava sui dettagli di questo piano dettagliato sul controllo del clima. perché questo documento venne fatto subito sparire. E grazie a questa prudente, diciamo, azione da parte nostra, questo documento adesso è fruibile da anni. Descrive a pagina 38 quanto sta avvenendo, cioè molto spesso notiamo che si hanno delle precipitazioni violente, le cosiddette bombe d'acqua, come le definiscono adesso i meteorologi, oppure assistiamo a periodi di elevata siccità, periodi lunghi di siccità, giornate estremamente calde e secche. La caratteristica principale delle operazioni oggi come oggi è osservare un cielo completamente bianco o leggermente azzurrino con velato. Delle nebbie di ricaduta che spesso vengono spacciate per nebbie di umidità. Lo chiamano velato, Rosario? Deserto, Rosario, lo chiamano velato, giusto? Dire che ultimamente queste operazioni si sono, diciamo, affinate per quanto riguarda la dissimulazione, in quanto che quelle che erano note un tempo come le famose scie chimiche, cioè quelle scie persistenti che si osservavano da orizzonte ad orizzonte a 180-360 gradi e che si allargavano fino a coprire il cielo, ormai vengono usate molto raramente ed esclusivamente nei periodi in cui sono da distruggere o deviare o comunque rendere più innocue perturbazioni che magari arrivano dall'Atlantico. Rosario, scusa se ti interrompo, perdonami, sì. Perdonami. Ecco, ma perché c'è questo controllo del tempo? Perché si decide a un certo punto che ci sia della siccità e poi invece, ecco, queste bombe d'acqua oppure maltempo oppure gli uragani che si stanno formando straordinariamente anche qui da noi in Italia? Ma intanto, senza dover andare per forza a raccogliere quelle che sono le teorie tipiche che possono essere disponibili sulla rete, abbastanza estremiste, diciamo così, per quanto poi in verità possono anche essere reali, realistiche e confermabili attraverso il controllo di alcuni dati disponibili. Il primo motivo è che oggi come oggi, diciamo da una decina di anni a questa parte, le tecnologie radar satellitari ad alta risoluzione impongono la presenza di un medium atmosferico particolarmente adatto affinché queste tecnologie possano funzionare adeguatamente. Mi riferisco ai satelliti in banda KA, che sono appunto satelliti in alta risoluzione nel range delle microonde, e questi satelliti, se è presente nuvolosità o comunque umidità relativa molto elevata, non funzionano al meglio. Per cui, secondo quelli che sono i dettami che troviamo anche in libri di strategia militare, le nubi da bel tempo che potrebbero evolvere in formazioni nuvolose più consistenti e formare precipitazioni vengono pedissequamente distrutte. Adesso soprattutto la notte, diciamo fuori dallo sguardo, certo, indiscreto di cittadini più attenti, mentre fino a pochi anni fa queste operazioni si svolgevano senza alcun problema anche durante il giorno con l'uso di scie persistenti. Sì, vabbè, ma devo dirti, scusa Rosario. Per rispondere alla tua domanda, sì, scusa se ti interrompo, vai. Con l'età che avanza mi scusami. Soprattutto tu mi dicevi, ma perché ci sono queste piogge, è normale, come dice il meteorologo asservito, diciamo, al diktat dei militari Mercalli, lui risponde in maniera piccata alla domanda di uno spettatore ad una sua conferenza, che comunque la pioggia, l'acqua da qualche parte deve pur cadere. Quindi lui cita una formula che poi tra l'altro non si adatta molto alla sua affermazione, però comunque lui spiega che se le precipitazioni non avvengono in un luogo, necessariamente, già che l'acqua da qualche parte deve cadere, queste si sfogano da un altro. Allora, questo è il principio secondo cui se io, aeronautica militare, non importa se italiana o statunitense o comunque appartenente alla NATO, con questi aerei che sono senza targhe identificative, spesso non sono identificati da radar e via dicendo, che volano a bassa quota, a quota cumulo per l'inseminazione igroscopica delle nubi, se io impedisco le precipitazioni nella Liguria occidentale, posso far sì volontariamente o involontariamente che le precipitazioni si sfoghino nella Liguria del Levante in maniera molto violenta. È quello che è successo nel 2011 quando noi con un anticipo di 3 giorni, al contrario di cosa fecero i meteorologi ufficiali che non previdero assolutamente niente del genere, noi prevedemmo che dato che nella Liguria del Ponente stavano o avrebbero impedito le precipitazioni, perché per motivi loro la Liguria del Ponente ha qualche interesse particolare affinché non debba piovere, sì, la maggior parte delle volte noi avevamo previsto, come poi si verificò, episodi violenti nella Liguria di Levante, con 3 giorni di anticipo, cioè noi dimostrammo in quel modo che il tempo non viene previsto ma viene deciso. Quindi controllo. Ne abbiamo la dimostrazione quando i meteorologi dicono tra 2 giorni vedremo delle velature. Ecco, le velature, dicono, infatti. Quindi controllo del tempo per poi passare direttamente al controllo della mente umana. Diciamo per larghità. Siamo lì, Rosario, siamo lì. Voglio dire, queste cose qua si potrebbero anche trattare, però diciamo con un argomento più ampio, è ovvio, col beneficio molto più del dubbio, perché è un argomento che poi comunque viene attaccato, adesso poi arriviamo anche diciamo alle esternazioni della stampa ufficiale, che ricordo esterna quello che comunque on demand gli viene detto di esternare, perché la stampa e i media ufficiali percepiscono centinaia di milioni di euro all'anno per scrivere. Perfetto. Quello che gli viene detto di scrivere. Ascoltami, però, Rosa. Se ci manteniamo nel concreto, sì, con dei riferimenti di prova, cioè la disinformazione, i negazionisti dicono ma voi non avete nessuna prova, no, certo, le prove ci sono, perché ci sono i libri, ci sono le tesi di laurea, ci sono i documenti universitari che confermano che per far funzionare correttamente i satelliti e i radar in banda KA, esempio il MUOS è un radar in banda KA, per farli funzionare bene non ci devono essere nuvole, ecco, questo è chiaro, ecco, quindi qui abbiamo un riferimento. Poi, siccome la nostra atmosfera, soprattutto la nostra bassa atmosfera, viene ridotta come una sorta di ionosfera, che è quella zona dell'atmosfera più alta che ha caratteristiche elettroconduttive, perché? Perché con queste famose scie che si conclamano attraverso la dispersione di alcuni metalli elettroconduttivi, si crea uno strato appunto che conduce l'elettricità più facilmente e quindi facilita il funzionamento dei radar. Perfetto. Dei satelliti, sì, e delle altre apparecchiature che funzionano nel range delle microonde, e chiaramente è logico che in una condizione del genere noi ci troviamo come in una sorta di forno a microonde gigantesco, e chiaramente siccome le onde elettromagnetiche a certe frequenze, soprattutto alle frequenze basse, interferiscono con il funzionamento del cervello, è chiaro che si hanno delle implicazioni negative sia a livello comportamentale sia per quanto riguarda eventuali tumori cerebrali rispetto a quella che è la vita umana, perché è chiaro che se io vengo continuamente bombardato di microonde, certo, certo, per far funzionare i loro ordigni militari e civili, qualche allora effetto è chiaro ce che l'avrò, noi che non staremo tanto bene. Certo. Senti, intanto saluto Ivana Mannino, perché si è aggiunta in streaming, ci sta ascoltando, la salutiamo. Perfetto. E abbiamo tante domande agli amici, quindi velocemente, ecco perché volevo stringere su di te, perché abbiamo innanzitutto Vito Bonavoglia, un amico da Eboli, che ci vuole rivolgere una domanda, ce l'abbiamo in diretta. Vito, buonasera. Buonasera Marco. Ciao, bello. Volevo chiedere informazioni sulla teoria del complotto sulle scie chimiche. Siamo qua. Quindi in largo raggio, diciamo. Sì. Quindi il complotto. Cos'è la teoria del complotto sulle scie chimiche? Allora, intanto se posso rispondere. Prego. Velocemente, definirla teoria del complotto è già così indicativo di un modo secondo cui si viene ghettizzati, cioè il giornalista, o meglio il giornalaio che nega l'evidenza dei fatti, o il meteorologo che spiega che si tratta solo di scie di condensazione, per mettere a tacere subito la questione dice ah no, ma tanto si tratta di una teoria del complotto. Allora, intanto non sono teorie, perché ci sono i fatti, c'è l'osservazione, ci sono i documenti che dimostrano che ad esempio quelle che vediamo noi quelle scie bianche non sono altro che il risultato della dispersione di trimetilalluminio. Il trimetilalluminio a contatto con l'ossigeno produce una scia, basta notare i missili che vengono lanciati in alta atmosfera, funzionano proprio col TMA, col trimetilalluminio, e lasciano delle scie persistenti. La stessa NASA, per controllare lo spostamento delle correnti in quota, usa missili a base alimentati da trimetilalluminio. Perché? Perché queste scie di trimetilalluminio persistono e allora la NASA è in grado di seguirne lo spostamento e quindi di controllare le correnti in quota. Quindi abbiamo i fatti e quindi non è una teoria. Il complotto è qualcosa che viene comunque operato nei confronti di qualcuno. Allora io posso parlare per esempio dell'omicidio di Kennedy, posso parlare delle torri gemelle, posso parlare anche della Torre 7 che è crollata in 7 secondi senza che sia stata mai colpita da un aereo. Quello è un complotto, ma se io dico che quelle torri sono crollate perché certamente non si trattava di aerei che erano andati a scontrarsi contro queste torri a causa di qualche islamico con un coltellino, io non sto teorizzando su un complotto, io sto raccontando dei fatti. Perché per esempio i media ufficiali, quando negano i fatti dell'11 settembre, non parlano della nanotermite, che è un esplosivo in dotazione solo ai militari statunitensi, che è stata ritrovata tra le polveri delle Torri Gemelle? Perché non ne parlano? Allora, noi non parliamo di teorie del complotto, noi evidenziamo fatti. Quindi nel caso delle scie chimiche noi siamo di fronte a un aspetto della modifica del clima che non è il primo obiettivo, ma è una conseguenza della ottimizzazione dei sistemi radar satellitari, sia militari sia civili, per un funzionamento adeguato. Quindi la modifica del clima è una disgraziata conseguenza che, secondo il modus operandi e secondo il modo di pensare del militare, è così un fatto collaterale che può essere anche accettato. Bene, Vito, ma tu hai notato in particolare qualcosa che ti ha destato preoccupazione o curiosità su questo? No, è una curiosità, perché informandomi un poco e parlando con degli amici, non mi ricordo, qualche volta abbiamo parlato di questa cosa. Ma ho visto che c'è l'occasione per gli elementi. Vito, oggi avrei potuto notare, constatare che sui nostri cieli della nostra valle, sia alta ma anche media-bassa, del Sele, c'è stato uno spruzzo di scie chimiche esagerato, fantastico. Questo caso strano, ma non tanto strano per noi, proprio in concomitanza del prossimo cambiamento climatico che avverrà tra sabato e domenica. Si parla di un arrivo di una perturbazione, arriverà il freddo, eccetera, eccetera. Ecco, quindi queste cose qui lasciano molti dubbi e lasciano pensare, Vito. Ecco, diciamo questo. Portano con il lavoro avanti, come dico io. Ma poi c'è un altro fattore interessante. Nei giorni scorsi il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato un piccolo trafiletto e poi successivamente ha marcato, diciamo, un po' la mano, ha calcato la mano con un altro articolo che era, diciamo, una sorta di copia e incolla di un precedente articolo di qualche anno fa, nel quale lui spiega che sono normalissime scie di condensazione, che si formano ad alta quota causa degli aerei di linea quando l'umidità è elevata. 10.000 metri, giusto Rosario? 10.000 metri? Dagli 8 ai 13.000, perfetto. Però attenzione. Però intanto io ho fatto notare al colonnello Giuliacci che il giorno 16, il giorno a cui lui si riferiva, l'umidità relativa in quota era compresa tra il 15 e il 25%. Ora, già che una scia di condensazione normalmente, se si forma, e la percentuale di probabilità non è neanche prossima al 3%, se si forma una scia di condensazione devono esserci coincidenti dei parametri fisici, cioè deve essere una quota superiore agli 8.000 metri, un'umidità relativa vicina al 60% ma anche superiore al 60% e ci devono essere idonei parametri di pressione atmosferica, nonché ci devono essere temperature inferiore ai 40 gradi centigradi, cioè tutti questi tre parametri devono corrispondere, ecco, devono coincidere. Lo sai, dobbiamo dire che ci devono essere delle comparazioni ben precise, ci devono essere proprio delle condizioni. Ci devono essere dei parametri fisici che devono, ecco, coincidere in un determinato, perfetto, momento, perfetto, in una determinata zona dell'atmosfera. Ma il problema qual è? Cioè, ora intanto, il famoso concetto della scia di condensazione, che è diventato talmente famoso da finire anche sui libri delle scuole elementari, mentre fino a 10 anni fa questa voce, questo argomento non era trattato neanche sulle enciclopedie tipo Motta o che ne so, Treccani. Allora, queste scie di condensazione sono una copertura per le scie cosiddette chimiche. Perché? Perché ad alta quota l'aria è quasi sempre molto secca e quindi, come dice Scott Stevens, ma anche come affermano altri studiosi negli Stati Uniti, è difficile che un essere vivente in tutta la sua vita riesca ad osservare una vera scia di condensazione, perché è un fenomeno talmente raro che, appunto, se noi andiamo a guardare anche dei filmati russi di caccia o di aerei di linea o comunque di velivoli che decollano, atterrano, volano nei cieli della Russia a temperature già bassissime sulla pista, vediamo che questi aerei non rilasciano nessuna scia di condensazione. Bene. Perché? Perché, ripeto, ad alta quota l'umidità è quasi assente o comunque non ci sono i parametri. Ora, d'accordo, nel caso specifico del colonnello Giuliacci, il colonnello Giuliacci non mi ha risposto, cioè io gli ho mostrato le radiosonde di quel giorno che non corrispondevano a quanto affermava lui, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Beh, è rimasto... Ora, se loro hanno ragione, perché non mi rispondono? Esatto, è rimasto perché interdetto. Non mi danno una risposta concreta dati alla mano. Esatto, diciamo, questo Rosario, è rimasto interdetto. Va bene, allora salutiamo Vito Bonavoglia che ci ha fatto questa domanda. Ciao Vito. Eccolo qui, lo salutiamo e noi andiamo in pubblicità. Signori, stiamo parlando con Rosario Marcianò, che è una cima sull'argomento delle scie chimiche, quindi restate con noi, appena dopo la pubblicità torniamo in trasmissione, a tra poco. Questa è Radio Peppia, sono 8:03 e stiamo parlando con Rosario Marcianò sull'argomento delle scie chimiche. L'abbiamo trattato tante volte, abbiamo anche tanti amici che ci fanno e ci rivolgono delle domande, e allora c'è Alessio Carrozzo, ad esempio, dice, e allora aspetta che la vado a prendere, Rosario, ecco, vuole sapere dopo quanto tempo le scie chimiche producono il loro effetto. Allora, dipende se si tratta di scie persistenti o di scie non persistenti, in entrambi i casi non si tratta di scie di condensazione, e paradossalmente anche se le scie non persistenti attirano di meno l'attenzione e preoccupano meno la popolazione, queste ricadono al suolo in più breve tempo attraverso la famosa nebbia chimica di ricaduta, tant'è che ieri abbiamo misurato dei livelli di nanoparticolato che arrivavano a fondo scala e continuavano a salire, e che sono, diciamo, il primato rispetto a tutti i livelli di polveri che abbiamo misurato in questo periodo. Quindi si tratta comunque di ricaduta di polveri sottili dannose sia per le vie respiratorie che per il sistema linfatico. Bene, quindi in effetti ci sono anche delle scie chimiche che si dissolvono nel breve tempo e altre invece che perdurano un po' di più. Dipende dalla percentuale inferiore di trimetilalluminio aggiunto nel carburante. È una domanda che mi sono posto proprio pochi giorni fa, ho detto ma chissà se questo... Sì. No, proprio ieri, manca a farlo posto. Persistenti le usano quando c'è alta pressione, che sia indotta o meno, comunque se c'è alta pressione e non ci sono formazioni nuvolose non hanno bisogno di usare le scie persistenti, per cui lavorano più nella, così, alla chetichella, e quindi è chiaro, se uno non ha la testa sempre sollevata, certo, in cielo, questi aerei che passano, certo, non li vede, non li scorge, perché non lasciano una scia che persiste che pochi secondi, ma trattandosi sempre di quote cumulo, quindi non superiore ai 2000 metri di quota, non si tratta di scie di condensazione, ma di scie, come dice il generale Fabio Mini, rilasciate a bella posta. Perfetto, allora anche Alessio Carrozzo l'abbiamo soddisfatto con una risposta di Rosario Marcianò. Io ti rivolgo adesso questa di Ian numero 6, magari mi dai la risposta appena dopo il GR, perché dobbiamo stringere sui tempi della radio, e quindi dice questo Ian: caro Rosario, come mai non si parla mai del famoso documento del 2010 del Parlamento inglese presentato all'Accademia delle Scienze Inglesi e al Parlamento sulla geoingegneria, dove si dice che in questa categoria si include l'emissione di solfati in aerosol in stratosfera per imitare l'effetto di raffreddamento causata dalle emissioni vulcaniche. Sì. Ma se vuoi brevemente accenno al discorso della geoingegneria, quella dichiarata ufficiale, anche la Russia ultimamente guarda, preferisco che mi dai una bella risposta dopo, guarda Rosario, sì, sono più contento. Andiamo in pubblicità, prima il GR, ascoltiamo le informazioni dall'Italia e dal mondo, quindi restate con Radio MPA, a tra poco. 20:12, questa è Radio MPA e allora ritorniamo in trasmissione perché con noi c'è Rosario Marcianò, stiamo parlando di scie chimiche e ovviamente se volete intervenire potete riformulare lo 0828 994070, ma anche sui profili Facebook ci trovate e anche ovviamente tramite lo streaming www.radiomepia.it. Però nel frattempo si è unita a noi Ivana Manino. Ivana, buonasera. Buonasera Marco. E ovviamente Rosario. Ciao Ivana. Ecco qua. Ciao Rosario. Bene, allora prima di dare la risposta definitiva a Ian numero 6, Rosario, c'è sempre Alessio Carrozzo che su quella domanda appunto che ti ha fatto, quanto tempo produceva i propri effetti la scia chimica, dice: ma dipende dalla temperatura l'effetto oppure no? Detto brevemente. No, qui non siamo di fronte a un fenomeno dato dalla fisica in sé, perché appunto non trattandosi di scie di condensazione non è che a 2000 metri ci sono 40 gradi sotto zero, anzi quest'estate comunque a 2000 metri ci sono sempre stati anche al di sopra dello zero termico, quindi comunque non si poteva parlare di condensazione. Si tratta di scie che sono evidenti e sono chiaramente spacciate per scie di condensazione, ma dipendono dalla reazione chimica che hanno questi particolari additivi con l'atmosfera, con l'ossigeno, nel caso specifico il trimetilalluminio proprio a contatto con l'umidità atmosferica e con l'ossigeno provoca una fumosa scia bianca che è tipica, se vediamo bene come dicevo prima, della missilistica, quindi non abbiamo un fenomeno che è legato alle temperature o all'umidità, ma è un fenomeno a sé stante che si può verificare in qualsiasi condizione atmosferica. Ho capito. Bene, questa in sintesi la risposta definitiva di Alessio Carrozzo. Invece quella su Ian, appunto la domanda che ti ha posto prima? Sì, la geoingegneria ufficiale, e quindi tutti gli studi che vengono proposti fin dai tempi di Teller nel 1997, quando propose appunto la dispersione di nanometalli e solfuri in atmosfera per limitare e mitigare un fantomatico riscaldamento globale che in realtà non esiste, ma è una copertura proprio per queste operazioni che inducono l'aumento delle temperature artificioso. Questi studi ufficiali non hanno nulla a che vedere con le operazioni di geoingegneria clandestina che vengono svolte per tutt'altro motivo e anzi addirittura provocano l'effetto contrario di quello che è l'effetto richiesto dalla geoingegneria negli studi ufficiali, cioè se nel caso della geoingegneria ufficiale si tratta di operazioni di solar management, quindi di impedire l'irraggiamento solare per diminuire l'aumento delle temperature, cosa che poi se andiamo a vedere gli studi ufficiali non si è mai verificata negli ultimi 50 anni, quindi l'aumento di temperatura non c'è stato per motivi dovuti al CO2, e questo non lo dico io, ma lo dicono 700-800 scienziati dissidenti. E nel caso invece della geoingegneria clandestina, alias scie chimiche, si tratta di operazioni che vengono svolte a diverse quote di volo, quindi dai 2000 ai 12.000 metri di quota, ma il grosso problema è che se queste operazioni vengono condotte spesso e volentieri, anzi oggi più spesso che prima, anche durante la notte e a bassa quota, queste inducono l'effetto contrario di quello che è la geoingegneria ufficiale, cioè aumentano le temperature perché impediscono l'escursione termica dalla Terra verso lo spazio. Perfetto, va bene. Senti, allora introduciamo anche Ivana, perché Ivana, sapete, è un'appassionata ma anche è diventata un'esperta, purtroppo, di terremoti, diciamo quelli provocati. Ivana? Ciao, sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, l'ho aggiunta mia personale, questo purtroppo. E devo dire che anche ultimamente, poche sere fa ci siamo sentiti su Facebook, ecco, tu avevi previsto una scossa, c'erano appunto sul centro-sud, cosa che si è verificata poi in Basilicata. Abbiamo avuto un 3.2. In Basilicata e diciamo anche nel Mediterraneo, l'isola di Creta e la Grecia veramente stanno saltando di brutto negli ultimi tempi. Beh, abbiamo sentito anche di questo tremendo botto che c'è stato, dove? In Pakistan, 7.7? Pakistan, sì, addirittura, ma guarda, è stato un magnitudo momento almeno di 8.1. 8.1 addirittura, quindi... Veramente è stato veramente, anche in superficie, catastrofe. Almeno 23 chilometri, credo. Ecco. E è durato addirittura 8 secondi. Ma 8 secondi sono immensi. Sono tanti a quei livelli. Certo, Rosario, ecco, vogliamo introdurre brevemente e poi magari ci ritorniamo sopra dopo. La connessione che c'è tra scie chimiche, abbiamo parlato prima di MUOS, poi volevamo aggiungere ARPA e poi tutti questi dannati fenomeni che accadono in natura, ahimè, natura tra virgolette, ma natura perché accadono sotto i nostri piedi, ma in effetti sono artificiali. Sì, le operazioni di aerosol clandestine sono anche collegate alla presenza di almeno una ventina di riscaldatori ionosferici che funzionano con lo stesso modo di operativo di ARP a Gakona in Alaska e che appunto riscaldano zone della ionosfera e la deformano. Normalmente che cosa succede? Che se questi riscaldatori ionosferici emettono delle onde, delle microonde, delle onde elettromagnetiche, dei fasci di onde elettromagnetiche concentrati verso una zona della ionosfera, questa zona della ionosfera si deforma, forma una sorta di cupola che comunque tende a ritornare velocemente nella sua posizione originaria nel momento in cui questo fascio di microonde viene interrotto. Questo ritorno, che viene definito bunching, rinculo, provoca una emissione di bassissime frequenze verso terra che può indurre dei sismi. Questo, come al solito, ribadisco, non lo affermo io, ma lo affermano diversi scienziati negli Stati Uniti che studiano, sono fisici, astronomi e via dicendo, che studiano questo fenomeno da diversi anni e che dati alla mano possono dimostrare in ogni momento che quello che dicono è vero, ma non solo, abbiamo anche una conferma indiretta da parte della NASA, appunto che è quell'ente spaziale gestito dal Pentagono, la quale pochi giorni dopo il sisma all'Aquila nel 2009 affermò, dichiarò, ci furono le notizie ANSA che vennero rilanciate in tutto il mondo, che è possibile prevedere i terremoti studiando le alterazioni della ionosfera. In realtà loro invertono i fattori, cioè loro sanno che perturbando la ionosfera è possibile generare terremoti. È chiaro che se noi osserviamo delle perturbazioni particolari nella ionosfera, possiamo a questo punto anche prevedere che di lì a poche decine di ore sarà possibile in una determinata zona che si verifichi un terremoto di magnitudo superiore a 5.1. Certo. Perfetto, perfetto. Allora, intanto che saluto Alessandro Trotti, io chiedo sia a Ivana che a te di aspettare, di avere un po' di pazienza, andiamo con un brano musicale, dopodiché c'è la pubblicità e ritorniamo nuovamente in trasmissione per le ulteriori notizie, anche le curiosità, anche le domande più disparate le potete porre anche alla nostra radio, anche via streaming oppure via sms al 393 18 79 797, ripeto 393 18 79 797. Sono le 20:30, allora dopo Enzo Iannacci ritorniamo in trasmissione con Ivana Mannino ma anche con Rosario Marcianò che abbiamo telefonato questa sera per darci così un'illustrazione un po' più ampia dell'argomento sulle scie chimiche. Con Ivana invece ci ricolleghiamo sul sistema ARP MUOS, ovviamente con i movimenti tellurici, diciamo quelli prodotti, provocati appunto dalla mano dell'uomo e quindi grazie che offrono per questo. Rosario, c'è quest'altro amico Bruno Mautone, dall'altro anche uno scrittore, ha scritto un bel libro su Rino Gaetano ucciso dalla massoneria, quindi è intervenuto tante volte in trasmissione e lui dice: sono affascinato dall'argomento, mi piacerebbe conoscerne i dettagli, gli aspetti tecnico-scientifici, e non è assolutamente scettico, Perciò mi interessa se il dato tecnico del fenomeno sia gli aspetti chimici diagnostici del fenomeno, sia gli aspetti chimici diagnostici del fenomeno stesso. Scusa, però non ho letto bene. In effetti lui vuole essere non convinto, ma è spiegato meglio un po' sull'argomento. È chiaro, noi ahimè già è tanto fare delle trasmissioni radiofoniche, però purtroppo il mezzo non è adatto per mostrare le prove, diciamo così, o i dati alla mano. Quindi è possibile magari fare una visitina al blog www.tankerenemy.com oppure sul canale video tanker-enemy.tv oppure ancora su tanker-enemy.com dove per esempio c'è qualche analisi, ci sono alcune analisi di mineralogramma e via discorrendo. Per quanto riguarda invece la documentazione relativa in sé al fenomeno scie chimiche, sul blog tankerenemy.com c'è una marea di dati, ci sono oltre 1500 articoli, bisogna solo avere la pazienza anche tramite il motore di ricerca interno di cercarsi i vari argomenti. Io direi che quante volte mi chiedono ma portami un po' qualche documento, c'è l'imbarazzo della scelta, non so neanche da dove partire, da tanta roba che c'è. Materiale di prova ce n'è tantissimo, sia per quanto riguarda il discorso delle quote, ma anche per quanto riguarda il discorso delle analisi, dei riscontri dei metalli ritrovati nell'acqua piovana, sia per quanto riguarda i riscontri relativi alle analisi delle polveri sottili di ricaduta, cioè analisi, elementi di prova scientifica ce ne sono tanti, ci sono studi che sono stati tradotti da studiosi e scienziati all'estero, perché qui in Italia purtroppo si fa solo disinformazione tramite i media di regime, per cui basta avere un po' di buona volontà e tutti gli elementi di riscontro scientifico ci sono, si trovano. Ecco, perché lui giustamente diceva, ma come si fa ad avere poi dei dati certi? Io gli ho scritto, gli ho spiegato su in chat appunto che tu sei stato in quota, hai fatto dei prelievi, ovviamente in quota si hanno dei risultati più precisi rispetto a quelli che si potrebbero avere stando ma, a terra. Guarda, è solo quello della questione delle analisi in quota, è solo una speculazione che si fa, perché per esempio se andiamo a prendere, che ne so, le affermazioni di Montanari, che si è occupato di nanoparticelle relative alle esplosioni degli ordigni con uranio impoverito, lui insieme alla moglie Antonella Gatti andava a fare gli esami sul terreno intorno alle zone di Kirra dove ci sono i poligoni di tiro e automaticamente lui diceva ecco, vedete, qui ci sono delle nanoparticelle, abbiamo trovato anche le stesse particelle negli animali che pascolano nella zona, per cui queste particelle vengono dalla base militare. Ovviamente, siccome noi ritroviamo nell'immediatezza un aumento delle polveri sottili e comunque se facciamo degli esami anche dell'acqua piovana troviamo i soliti metalli killer che sono alluminio, bario, manganese, stronzio e via discorrendo, cosa evidentemente possiamo fare uno stretto, mettere in collegamento le irrorazioni chimiche con quello che ritroviamo al suolo e nell'aria, proprio perché comunque le particelle, essendo più pesanti dell'aria, entro poche ore ricadono al suolo. Se noi troviamo ortaggi che sono stati coltivati in terreno accertatamente preso da parte e non contaminato da metalli, e questi ortaggi cresciuti li analizziamo e vediamo che sono pieni di questi metalli killer, allora è chiaro che da qualche parte arriveranno se non erano nel terreno, no? E logicamente, certo, quando abbiamo fatto un prelievo di polvere su un volo Ryanair e abbiamo rilevato la presenza di alluminio, bario e cadmio in questi campioni di polvere, è chiaro che da qualche parte, visto che si trattava di voli di linea ad alta quota, non potevano questi metalli arrivare da terra, ma dovevano essere per forza nell'aria. Giusto. Quindi io direi che specificamente per quanto riguarda il discorso delle analisi in quota, sarebbe più facile, più preciso ottenere tramite la collaborazione con un centro universitario uno studio spettroscopico tramite un LIDAR, basterebbe da terra analizzare una scia chimica e attraverso il riscontro spettroscopico avere i risultati chimici e fisici di quello che contiene questa scia. Ovviamente siamo di fronte a un muro, perché sono proprio i centri universitari che spesso sono coinvolti nelle nanotecnologie e negli sviluppi bio-nanotecnologici che sono correlati alle operazioni di aerosol. Capisci bene? Certo. Noi con le possibilità che abbiamo non possiamo procurarci un LIDAR che costa 30.000 euro e che tanto più che non si trova in commercio così, e poi non possiamo neanche usarlo perché non abbiamo le capacità per farlo. Ci vorrebbe la collaborazione di quegli stessi enti che invece sono operativi nel negare l'evidenza. Bene, e allora passando a Ivana, ecco, tu hai tirato su questa web, questo canale Web TV proprio per parlare di queste cose. Ecco, ce lo vuoi illustrare brevemente? Sì, siamo in fase di allestimento e a breve, credo che, non dico tra un mese, ma quasi saremmo pronti per mandare in onda anche interviste fatte ai cittadini e comunque video molto molto accurati per denunciare l'evento delle scie chimiche e di ARP soprattutto, perché ricordo che ARP e scie chimiche sono connessi. ARP sottinteso come apparati di radiotelecomunicazione, militari e di radar soprattutto. Ecco, diciamo brevemente anche come funziona l'ARP, come lo fanno funzionare, ecco. Ma l'ARP lo fanno funzionare con dei piloni, delle ionosonde e digisonde, soprattutto delle digisonde, che al contrario delle ionosonde sono delle vere e proprie antenne che inviano il segnale, mentre le ionosonde lo ricevono. Quindi con questi apparati inviano il segnale ad una certa altitudine dell'atmosfera, come prima ricordato Rosario, e la riscaldano. Riscaldandola questa si gonfia e ha un effetto lente, così che tutti i segnali possono rimbalzare su questa bolla e ricadere a terra ed andare a colpire sia gli altri radar oppure addirittura creare i terremoti, perché le onde elettromagnetiche sono molto importanti per quanto riguarda i terremoti. Si possono creare terremoti Certo. Diciamo che in parole povere, Ivana, questo avviene con l'emissione di onde a bassa frequenza. Delle onde particolari indirizzate in un punto, in un determinato momento, dove la faglia è in forte tensione, sì. Anche grazie a dei satelliti loro possono individuare il tipo di terreno, la geologia di quel punto, certo, perché ci sono dei materiali che sono paramagnetici, quindi che cosa fanno? Sono sensibili alle onde elettromagnetiche e quindi vengono leggermente attratti. Sembra fantascienza, però vuoi capire che se in un punto dove c'è una forte tensione c'è anche un piccolissimo dislivello di forze, genera un contraccolpo, un terremoto. Certo. E quindi ecco come fanno. Ivana, tornando al canale, ovviamente ci sarà anche la mia collaborazione, quindi io confermo, mi farei sapere. Spero vivamente, quindi. Ma certo, ci mancherebbe, dai. Ormai non mi scappi più. No, non ti scappo, tranquilla. Ebbene, quindi diciamo che la risposta l'hai data, ma io aggiungerei, tornando velocemente su Rosario, perché siamo davvero in chiusura di programma, qua si spiega perché spesso fanno queste X, ad esempio oggi ho visto una bella X, magari dall'alto, dal satellite si riesce a sapere, si riesce a vedere meglio laddove si può concentrare un determinato fenomeno, dove si può creare, dove si può realizzare, tante cose, sono degli effetti. E giusto per chiudere, c'è quest'altro amico sempre su Facebook che si chiama Roma Caput Mundi, se puoi appunto dargli la risposta anche a lui, che dice: anch'io ho notato che il tempo cambia quando vedo queste scie, che lui fino a 2 minuti fa chiamava appunto di condensa. Sì, purtroppo la disinformazione e anche la riprogrammazione attraverso le pubblicità, i film, i cartoni animati è potente in questo senso. Sì. Quindi si è creata una sorta di convinzione inconscia che quelle che vediamo sono scie di condensazione, ma non lo sono. Ripeto, le scie di condensazione si formano in casi rarissimi, non più del 3% durante tutto l'anno. Tu mi ponevi una domanda, scusami, che poi adesso mi sono perso. Me la puoi ripetere, per favore? No, questo amico su Facebook chiedeva appunto che ha notato il cambiamento climatico. Sì. Ecco, appunto. No, niente, non è che il tempo cambia dopo che hanno operato. In realtà, se per esempio l'aeronautica militare italiana, teniamo conto che il meteo è sotto il controllo dell'aeronautica militare italiana, prevede che nell'arco dei prossimi 2-3 giorni arrivi una perturbazione, comunque un fronte perturbato dall'Atlantico, chiaramente loro si mettono col lavoro avanti, perché siccome queste perturbazioni, come ho detto all'inizio della trasmissione, danno fastidio ai satelliti e ai radar in banda KA in alta risoluzione, che ormai sono la gran parte per tutte le tecnologie civili e militari, loro che cosa fanno? Dispongono, distendono, disperdono delle sostanze chimiche igroscopiche ed elettroconduttive nelle zone critiche in modo tale da ostacolare l'ingresso di una determinata perturbazione. Quest'estate per esempio ci siamo trovati per diverse volte in situazioni di anomale situazioni di alta pressione che in realtà erano generate dal fatto che il fronte veniva fermato addirittura sul Golfo di Biscaglia, laddove dalle satellitari si vedevano delle operazioni nell'oceano con scie persistenti che servivano attraverso una copertura chimica molto estesa ad ostacolare l'ingresso della perturbazione, per cui noi ci ritrovavamo con una situazione di alta pressione indotta, artificiale, e le perturbazioni non arrivavano. Certo. Praticamente che cosa succede? Che magari nell'arco delle 24, 36, 48 ore successive la perturbazione arriva, perché comunque una parte di essa deve arrivare, ma arriverà più diminuita nel suo potere e quindi è chiaro che non sono le scie che fanno venire la pioggia, ma sono le scie che vengono disposte prima per impedire che quella precipitazione si verifichi quel determinato giorno. Ricordo che il 16, quando c'è stato il boom di operazioni chimiche con scie persistenti, casualmente era l'inizio di una esercitazione congiunta NATO, alla quale partecipava anche l'Italia, lo possiamo trovare sul Ministero degli Esteri ma anche sull'Aeronautica Militare, una esercitazione durata dal 16 al 20 e informazioni militari ci hanno confermato che queste operazioni sono state condotte per facilitare e ottimizzare il funzionamento dei satelliti. Perfetto, va bene, d'accordo, siamo stati molto esaudienti e esaustivi sulle varie risposte. Allora, Ivana, proprio in 2 minuti, perché ho i tempi molto stretti, se vuoi dare l'indirizzo appunto per la pagina web, per il canale web, ci fa piacere sentirlo. Il canale web, guardate, io posso dare la mia pagina e lì troverete tutti i dati possibili, basta che cliccate su Facebook Ivana Mannino, mi richiedete l'amicizia e poi a chiunque mi chiederà informazioni gli darò volentieri. Grazie Ivana, grazie come sempre. Rosario, e invece con te i tuoi indirizzi utili? Ebbene, allora www.tankerenemy.com, www.tanker-enemy.tv, www.tanker-enemy.com. Diciamo che ci sono i blog e i siti principali per avere tutte le informazioni del caso. Poi sul blog a destra c'è una casella di ricerca, si può fare la ricerca interna al sito e si può trovare tutto il materiale che si vuole. Grazie ancora a tutti e due, ad entrambi, per il vostro tempo che mi avete concesso. Grazie Ivana. Grazie. Va bene. Arrivederci la prossima volta. Ovviamente ci risentiremo sempre su Radio PPA, ma seguite sia Rosario Marcianò che Ivana Mannino, perché sono due persone estremamente importanti e interessanti, davvero. Grazie a tutti e due, amici. Ciao. Buonasera a tutti, anche grazie alla redazione. Grazie a voi, grazie. Bene, cari amici, allora Marco Cuoco chiude qui il programma. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete mostrato anche sul nostro sito www.radiomepia.it e l'appuntamento mio personale per venerdì, ma ogni mercoledì sapete che oramai trattiamo di queste argomentazioni. Chiudo qui, anche perché stanno per iniziare le partite, andiamo a vedere che cosa fanno. Ciao a tutti!